Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì sera con Autotrasporti, il programma che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto. Stasera seguiamo la scia di Transpotec, il salone dei trasporti e della logistica che ieri ha chiuso i battenti a Verona ed è stato l'occasione di incontro, dibattito e riflessione sui temi e le questioni al centro dell'attenzione del settore. Si è parlato un po' di tutto, a partire dalla sicurezza e quindi anche di incidenti stradali. Questa sera il numero della puntata è in realtà una percentuale, 6,4%, cioè la percentuale di veicoli commerciali e mezzi pesanti coinvolti negli incidenti. A Transpotec, il DIS, Centro di Ricerca per la Sicurezza Stradale, ha elaborato i dati di ACI e Istat, di fatto sfatando un luogo comune, secondo il quale cioè una parte significativa degli incidenti vede coinvolti mezzi pesanti. Al nostro microfono, Lorella Montrasio, presidente di DIS. Abbiamo visto che i mezzi pesanti, intesi come tutti i mezzi, quindi intesi anche come quelli che hanno una stazza inferiore ai 35 quintali, fino ad arrivare ai mezzi invece veramente considerati pesanti, hanno un tasso di incidentalità che è leggermente inferiore a quello delle autovetture, cioè il rapporto tra il numero di incidenti causati dai mezzi pesanti in rapporto al circolante con le autovetture è del 18% a sfavore delle autovetture, cioè incidentano per il 18% in più. La sensazione quindi che ha la gente di paura nei confronti del mezzo pesante, che rende diffidenti, sembrerebbe del tutto ingiustificata. In termini invece generali, negli ultimi anni, sulla base di quello che dice la vostra ricerca, il numero degli incidenti è comunque in calo. Sì, il numero di incidenti è in calo, il tasso di mortalità non è in calo, nel senso che cala il numero delle vittime della strada perché calano gli incidenti, quindi c'è una correlazione, però a parità di incidente parità di vittime purtroppo, e quindi resta ancora molto da fare per arrivare al dimezzamento previsto dalla Commissione Europea delle vittime della strada entro il 2020. Regole, sicurezza, competitività sono stati i temi focalizzati nella tavola rotonda che si è tenuta sabato mattina su iniziativa del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Nel corso del confronto, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria, sono emerse novità importanti sui temi del cabotaggio, della tenuta dell'albo, anche alla luce del ritorno a livello provinciale della competenza alla motorizzazione. Ad illustrare le novità ai vertici dell'albo intervenuti al nostro microfono. Maria Teresa Di Matteo, presidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, e Silvio Faggi, che del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è il vicepresidente. Dottoressa Di Matteo, partiamo dal cabotaggio. Ci sono novità sotto questo profilo? C'è una novità, diciamo, veramente recentissima. Il ministro ha espresso delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio, ha espresso condivisione per l'invio alla Commissione Europea di una nota insieme ad altri stati membri dell'Unione Europea per far sì che, diciamo, venga rivisto il regolamento e venga fatta chiarezza su diversi aspetti, diciamo, che sono problematici per le categorie degli autotrasportatori, quali per esempio il problema dei diversi costi, diciamo, tra i diversi paesi, diciamo, diversa tassazione e quant'altro, al modo da poter arrivare a una disciplina comune a tutti gli stati membri. Che è un'esigenza molto sentita. Molto sentita dalle associazioni, sì. La recente riforma ha attribuito all'albo degli autotrasportatori competenze rafforzate in termini di controllo e anche sotto questo profilo ci sono novità. Sì, ci sono novità, a parte che l'albo già da diversi mesi sta lavorando per nel rispetto di quello che dice la norma, per allineare le diverse banche dati e per far emergere situazioni di irregolarità. Una situazione di irregolarità abbastanza palese, sulla quale, a dire il vero, negli ultimi anni non è stato possibile incidere, riguarda un numero rilevante di imprese che sono iscritte all'albo ma non possiedono veicoli. Ora l'albo, attraverso una richiesta inviata proprio a queste imprese, intende andare a fondo a questa situazione, capire le motivazioni, perché queste imprese, parliamo di oltre 30.000 aziende, continuano a rimanere iscritte nell'organismo pur non avendo, come dire, direttamente la possibilità di svolgere con propri mezzi l'attività, per arrivare poi ad una pulizia rispetto a tutte le situazioni anomali che si dovessero andare a rilevare. Quindi partirà questa lettera a giorni di richiesta di chiarimenti a queste imprese e sarà, come dire, l'inizio, l'avvio di un procedimento che potrebbe portare anche all'espulsione di queste aziende qualora si dovesse rilevare che non hanno titolo per rimanere iscritte. I dati degli albi provinciali tornano alla motorizzazione, anche questa è una novità introdotta recentemente, però ci sono dei problemi, ci sono anche dei comportamenti, diciamo così, a livello provinciale un po' particolari che indubbiamente non semplificano in questo momento questo passaggio. Sì, c'è intanto da dire che questa è una decisione presa da tempo, il DPCM è stato firmato ancora, diciamo, nell'anno vecchio, ma non è ancora stato pubblicato e reso quindi operativo. Con i decreti attuativi. Manca questo decreto e mancano una serie di decreti che consentono di trasferire alle motorizzazioni competenze che da oltre 15 anni erano state conferite alle amministrazioni provinciali. In questa fase, che purtroppo si sta allungando oltre il previsto, stanno succedendo situazioni anche piuttosto critiche, perché ci troviamo di fronte a province che hanno cessato di svolgere le loro funzioni pur non essendo ancora stato emanato il decreto che le espropria, uso questo termine forse in maniera che le espropria di questa competenza. E quindi c'è una situazione in alcune province, ad esempio Caserta, che è venuta fuori in maniera eclatante anche negli ultimi tempi, in cui la provincia non svolge più le funzioni che dovrebbe svolgere, la motorizzazione non può ancora svolgere, non può supplire a questa carenza perché non ne ha ancora la facoltà, e quindi le imprese sono in una zona grigia, in una zona d'ombra, e questo oggettivamente non è possibile. Anche sotto questo profilo il Ministero sta provvedendo. E, diciamo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in particolare, ma tutto il governo, diciamo, ha intendimento di evitare che ci siano contraccolpi per il settore e per le imprese. A tal fine, diciamo, nella prossima conferenza Stato autonomie, città autonomie locali, ci sarà, diciamo, un accordo che è stato concordato tra MIT e UPI sotto l'egida della Presidenza, che in qualche modo dovrebbe evitare che le imprese possano avere contraccolpi. In questo accordo è previsto, diciamo, che le imprese continueranno a svolgere le attività fino al momento del passaggio effettivo alle motorizzazioni. Ci saranno forme di avvalimento del personale in modo da evitare, diciamo, problematiche legate alla continuità, trasferimento di procedure e quant'altro. Questa settimana, nella rubrica dedicata alla storia del viaggio su strada di un prodotto, di un bene o di una merce, si parla di carburanti, e a raccontarci questo percorso è Gabriele Torriglia, esperto del settore. I carburanti vengono ovviamente stoccati dalle raffinerie e vengono poi portati nei loro centri di distribuzione. Ovviamente in quella fase c'è un tipo di cisterna con un impianto a gravità e quindi con delle caratteristiche di carico e scarico, mentre poi dai centri di raccolta fino agli impianti di benzina, gli impianti autostradali e non, vengono portati con un'altra tipologia, con talitri e così via. Insomma, ci sono dei requisiti, delle normative ben precise. Lei capisce che la pericolosità di questi prodotti sulla strada. Un altro problema grandissimo è il discorso della possibilità o non possibilità di rubare questo prodotto durante le fasi di trasporto. Quindi ci sono anche lì dei requisiti importanti proprio per evitare questo. Dai primi autotreni alle cisterne più moderne, un processo di sviluppo e ammodernamento che ha segnato la storia dell'autotrasporto. Le cisterne sono passate dai primi anni 60, ovviamente motrice rimorchio si sono trasformate sull'autoarticolato, quindi trattore stradale più semirimorchio, poi per problemi di sicurezza, di carico maggiore e così via, sono nati gli autoportanti. Autoportanti vuol dire con il telaio e la scocca portante, che permettono di avere un baricentro più basso, permettono anche di avere dei carichi maggiori con più volumi. Questo appuntamento del lunedì con hashtag autotrasporti termina qui. Vi ricordo gli altri appuntamenti della settimana con il mondo dell'autotrasporto su Radio 24, in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Da Andrea Ferro, buonasera a tutti. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.